Benvenuti a tutte e a tutti. Vi saluta la dottoressa Valeria Trevisan, che oggi purtroppo non è riuscita ad essere presente, ma vi porta comunque i suoi più preziosi saluti. E, dalla biblioteca presenteremo la regione Trentino-Alto Adige, Südtirol nel XX secolo, e volume 3, l'oggetto Popolazione. Vi auguriamo una buona serata e buon ascolto. Grazie. Grazie mille, vielen Dank. Innanzitutto vorrei ringraziare la Biblioteca Claudia Augusta con la direttrice Trevisan che ci ha dato la possibilità di presentare qui questa sera questo libro. Guten Abend nun auch auf Deutsch. Herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Herzlich willkommen im Namen von Geschichte und Region, Storia e Regione. Mit dieser ersten Buchvorstellung des Jahres leiten wir unser Jahresprogramm ein. Das ist inzwischen eine Tradition geworden, die eben vom interessierten Publikum immer sehr gut aufgenommen wird. Und auch dieses Jahr eben hat es sich bewährt, wie ich mit einem Blick ins Publikum eben erkennen kann. Es freut mich, ja auch die Herausgeber hier zu haben, Rodolfo Tajani und Michael Wedekind, die sich heute Abend die Zeit genommen haben, eben um nach Bozen zu kommen. E come terzo ospite, seduto in mezzo, do il benvenuto a Alessio Fornasin che ha accettato il nostro invito di dialogare con i curatori, aggiungendo così un punto di vista esterno in grado anche di manovrare la discussione attraverso questo fitto volume. Wie bereits erwähnt, eben läuten wir mit diesem Buch unser Jahresprogramm ein und wir tun dies mit einer, ich möchte sagen, mehr als druckfrischen Publikation. Sie sehen sie hier an den Seiten, deren Titel lautet Bevölkerungsgeschichte eines mitteleuropäischen Übergangsraums Tirol, Südtirol, Trentino 1880, 2010. Die Publikation ist eben vor wenigen Tagen bei Böhlau erschienen. Italienische Ausgabe mit dem Titel La Regione Trentino-Alto Adige, Südtirol nel XX secolo, Volume 3, l'oggetto Popolazione, stammt hingegen aus dem Jahre 2021 und ist in Trient bei der Fondazione Museo Storico del Trentino erschienen. Eine reichhaltige Publikation, fast 700 Seiten stark und mit einem Gewicht von 1,5 Kilo, zumindest was die deutsche Ausgabe betrifft. Und eine Publikation, in der es eben um die demografische Entwicklung in einem alpenländischen Grenz- und Übergangsraum geht, also sprich Südtirol, Trentino und Tirol, der eben von verschiedensten Faktoren geprägt ist, dieser Raum, sei es in geografischer als auch in historischer Hinsicht, sowie von zahlreichen Brüchen, die den Zeitraum zwischen der Spätphase der Habsburger Monarchie und dem beginnenden 21. Jahrhundert kennzeichneten. Ce ne parleranno ora i curatori assieme a Alessio Fornasin, ma prima di iniziare vorrei brevemente presentare i nostri ospiti, iniziando da Rodolfo Tajani alla destra, che ha studiato scienze politiche presso l'Università degli Studi di Milano e l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole. Si occupa soprattutto di storia sociale della sanità nei suoi diversi aspetti. Era responsabile dell'area archivi, biblioteca, collezioni ed editoria della Fondazione Museo Storico del Trentino ed è tuttora direttore scientifico della rivista semestrale Archivio Trentino, rivista di studi interdisciplinari sull'età moderna e contemporanea. Michael Wedekind, hier ganz links, hat Geschichte, Romanistik und Erziehungswissenschaften an den Universitäten Bologna und Münster in Westfalen studiert. Lehre und Forschung haben ihn an die Universitäten Münster und Wien sowie an das Zentralinstitut für Kunstgeschichte und München in München nach Trient und Bukarest geführt. Er befasst sich vornehmlich mit den deutsch-italienischen Beziehungen sowie mit der jüngeren Geschichte des Alpen-Adria-Raumes und Südosteuropas. Infine, Alessio Fornasin, professore di demografia presso l'Università di Udine, ha al suo attivo numerose pubblicazioni sui temi di demografia storica e storia economica. I suoi più recenti lavori affrontano l'influenza dell'ambiente sui comportamenti demografici, le relazioni tra famiglia ed economia agricola e gli aspetti demografici della Prima Guerra Mondiale, per cui è la persona più adatta per presentare questo volume insieme ai curatori. E per questo passerei al signor Fornasin la parola. Grazie e buonasera a tutti. Non è facilissimo parlare di questo libro, perché ci sono tante cose dentro, anche cose molto diverse. Quando mi hanno chiesto, poi circa un anno fa, insomma, di fare la recensione del volume, io ho accettato volentieri, anche perché occupandomi prevalentemente di demografia storica, ho pensato chi meglio di me può fare una cosa del genere, no? Poi, quando mi è arrivato il volume, l'ho visto e ho realizzato che si trattava di un tomo piuttosto notevole in quanto a dimensioni, erano 600 pagine. Ho contato gli articoli, sono 28 articoli, se non ho contato male, ci sono due appendici, 38 autori. Insomma, boh, ci dormo sopra, mi sono detto, ho dormito un paio di settimane, poi in realtà... E ho provato a fare, insomma, a proporre la recensione, appunto cercando di trovare, insomma, dei fili all'interno del libro, ce ne sono tantissimi, per riuscire in qualche modo a fare un discorso coerente. Non so se ci sono riuscito, ma insomma almeno ci ho provato. Adesso, cioè, dopo che uno ha fatto la recensione, non è che no, viene qui e legge la recensione, non va bene. No? Ho provato a trovare, insomma, a rimettere insieme le cose in maniera un po' diversa. E contrariamente a quanto fatto per iscritto, diciamo, qui avevo pensato di cominciare dalla fine del libro. No? Io avevo letto ovviamente l'edizione italiana e avevo tenuto, proprio alla fine anche di questa famosa recensione di cui vi prometto non parlerò più, avevo tenuto appunto la parte relativa alle carte. Poi, molto gentilmente, mi è stata anche donata, diciamo così, mi è stato donato il PDF dell'edizione tedesca e mi sono accorto che tutta la parte cartografica non è più alla fine del volume, ma è nel centro del volume. Quindi... da un certo punto di vista partirò dalla fine del libro, da un altro punto di vista partirò dal cuore del libro. Non so poi quali siano i motivi che hanno portato i curatori a fare questa scelta, sicuramente saranno dei motivi ottimi, poi magari me lo dite, anzi sicuramente, no? Sono motivi ottimi. Allora, che dire, le carte sono bellissime. Ho visto che sono state preparate una serie di slide che parlano proprio di questo, quindi quando verrà il momento, no? Quando... i curatori avranno l'occasione, no, di poter parlare loro, quindi quando io avrò finito, no, saranno tutti stufi di sentirmi. Potremmo anche vederle queste carte, alcune. No? Ecco, quindi sarà sicuramente Michael a parlare di questo. Quello che posso dire io è che alcune di queste carte, sono la maggior parte sono carte poi ottocentesche, no? Alcune sono novecentesche, però ci sono anche delle carte fatte, per così dire, nuovo, ex novo, no? Fatte da un vostro collaboratore, ha fatto un ottimo lavoro, a mio avviso, che inserisce proprio la regione Trentino-Alto Adige nel contesto alpino, no? Nel contesto di tutte le Alpi italiane. E un po' mi ha fatto anche piacere vedere, perché alcune carte simili le avevo fatte anch'io qualche anno fa, no? E ovviamente utilizzando anche, non in tutto, anche gli stessi dati, e anche la scelta di colori è stata la stessa addirittura. Io avevo fatto queste carte, un paio, insomma, niente di particolare, no? E queste sono più belle indubbiamente. Avevo scelto gli stessi colori, solo che, magari non so se dopo ne vedremo qualcuna, i comuni in cui si vedeva una crescita demografica, siamo, diciamo, all'inizio del nostro secolo, sono colorati in rosso, mentre quelli con una decrescita demografica sono colorati in blu. Ecco, io avevo usato blu e rosso, però all'opposto, no? Per drammatizzare avevo messo in rosso i comuni che perdevano abitanti e invece avevo messo in blu. E comunque l'effetto più o meno è quello, insomma. Allora, bellissimo. Poi un'altra cosa, visto che ho deciso di partire, insomma, avevo deciso di partire dalla fine, che in parte è il cuore, ma arrivo alla fine fine, no? Che è una cosa di cui non sempre si parla e che invece io ho apprezzato moltissimo, anche perché mi occupo per lavoro, no? Di queste cose, e il fatto di avere un apparato bibliografico che ho trovato stupefacente, e questo dà la misura, insomma, del lavoro che è stato fatto e dei curatori e naturalmente degli autori, e poi questo è un lavoraccio veramente, anche quello di fare tutti gli indici, no? Ma guardate, io nella mia vita ho visto, prima di venire qui, ho curato 11 volumi, no? Ecco, forse tutti insieme avevano 38 autori complessivamente, no? Quindi è una fatica terribile. Io non farò parlare gli autori, i curatori di questo, perché potrebbe anche metterli in imbarazzo se ci sono degli autori qui dentro, no? Perché io quando ho curato alcuni dei libri che ho curato io, cioè, è difficile riuscire a tenere sempre i contatti con tutti, assegnare a ciascuno un tema, fare il modo, nei limiti che questo comporta, di evitare sovrapposizioni, cosa che è quasi impossibile da farsi poi in realtà, no? Quando arrivano i lavori, le cose, ecco, ci sono alcune parti, no? Che magari si sovrappongono, ma questo non è necessariamente un male, anzi un bene secondo me, perché permette di valutare i diversi punti di vista, insomma. Ecco, quindi questo apparato qui, questo apparato bibliografico, eccetera, è una misura, no? Anche della qualità del volume e dell'intenso lavoro che è stato necessario per produrlo. Allora, ho deciso di parlarvi di alcuni temi. Scusate, non mi chiama mai nessuno, lo spento. Di scegliere, insomma, alcuni temi e di approfondire un po' alcuni aspetti, senza portar via troppo tempo poi naturalmente a quelli che sono i veri protagonisti della serata, no? Ecco, allora questi temi sono la demografia, naturalmente, no? Cosa posso dire su questo libro e sulla demografia? Allora, qui i temi demografici sono studiati da tanti punti di vista e non mancano naturalmente quelli che sono le analisi demografiche, per così dire, classiche, no? Ecco, allora già in tante parti di questo libro sono stati affidati ad autori, diciamo, di madrelingua italiana, delle parti, autori di madrelingua tedesca, poi anche tra i curatori, no? Abbiamo questa attenzione, insomma, a coinvolgere tutte le componenti linguistiche, anche quella ladina naturalmente, no? All'interno dello studio. Anche sulla scelta, sulle parti più demografiche, anche proprio tecnicamente, no? Anche qui sono state affidate degli autori che peraltro conosco, alcuni di questi conosco molto bene, insomma. La parte italiana, la parte sviluppata dagli autori italiani sono Fiorenzo Rossi e Fausta Ongaro. Fausta Ongaro credo sia trentino, cioè abita sicuramente, o abitava, è proveniente da questa regione, insomma. Che hanno sviluppato, riprendendo anche lavori che avevano fatto nel passato, hanno sviluppato proprio in maniera classica il tema della demografia, partendo dal 1920, dal primo dopoguerra, diciamo, fino ad oggi più o meno. È una parte importante, anche trattata, in questi casi si dice molto solida, no? Anche perché è frutto del lavoro di studiosi molto, molto attenti, insomma. E poi c'è una parte, invece quella riferita al periodo precedente, che invece è stata affidata a due studiosi. Teibenbach, che lo conosco, so che è di Graz. Ebert, come si chiama? L'altro autore, no? C'è il lavoro di Peter Teibenbacher. Sì, sì, adesso vediamo, Emer, sì, che invece hanno trattato la parte precedente. Qui sono cose anche abbastanza, periodi così diversi, riguardano anche temi e problematiche diverse, no? C'è il lavoro trattato dagli studiosi austriaci, riguarda, come dicevo, la parte precedente al primo conflitto mondiale, e tratta di un periodo storico molto particolare, insomma la transizione demografica. Quindi un periodo in cui ci sono state delle profondissime trasformazioni in tutte le popolazioni, perlomeno dei paesi, come diciamo noi demografi, no? Demograficamente maturi, quindi paesi occidentali essenzialmente, no? Il calo della mortalità, il calo della natalità, poi con ampi e approfonditi riferimenti anche alla storia della famiglia e così via. Viceversa, il lavoro successivo tratta poi delle ultime trasformazioni, no? Della demografia del Trentino e del Sud Tirolo, mettendo poi in evidenza quella che è una delle caratteristiche principali, no? Di questa regione, ovvero sia i livelli di fecondità che sono i più alti d'Italia, no? In particolare nella provincia appunto di Bolzano. Ecco, allora queste parti qui, diciamo, sono parti canoniche, no? Che un testo di demografia non possono mancare, no? E bisogna dire che queste parti canoniche sono, mi pare, particolarmente importanti ed efficaci, insomma. Ecco, questo è un primo aspetto, insomma, che ho voluto menzionare. Un secondo aspetto è quello che riguarda, un po' ripercorre tutti gli articoli in qualche modo, ma alcuni articoli sono, come si dice, devoti proprio al trattare questi aspetti, che sono le questioni relative alle fonti. Allora, le fonti, diciamo che nella letteratura scientifica, nella letteratura storica, devono rivestire naturalmente una parte centrale, e la critica delle fonti è un aspetto anche questo che qualifica la qualità e la bontà del lavoro. E qui le fonti sono importanti sempre, no? E in questo caso mi sembra debbano essere trattate come sono state trattate, in maniera particolarmente attenta. Allora, ogni tanto mi capita, quando si cerca di capire, non so, quale sarà il futuro demografico, non so, della mia regione solitamente, oppure quali sono, no, gli aspetti demografici più rilevanti che possiamo valutare oggi, no? E le persone che mi invitano, gli organizzatori di eventuali riunioni, confronti, mi dicono sì, perché noi abbiamo bisogno di parlare dei numeri, no? E questi numeri sono oggettivi, no? Quindi non possiamo fermarci a parlare di cose che non gestiamo in maniera accurata e sicura, così sicura come sono i numeri. A me spiace contraddire queste persone, anche perché sotto un certo profilo è vero. Ma come sappiamo tutti, no? Basta leggere qualche dibattito politico vedere qualche dibattito politico in TV, i numeri possono essere trattati in tantissimi modi diversi. E quindi le fonti stesse in cui questi numeri sono raccolti sono frutto appunto di criteri di raccolta delle informazioni. E questi criteri possono improntarsi a metodi che permettono di evidenziare alcuni aspetti e di nascondere altri, che permettono di dimostrare, no, che la popolazione in un dato contesto territoriale, non farò esempi ma credo che si capisca benissimo, sono più i parlanti una certa lingua o coloro che parlano un'altra lingua, no? Due popolazioni che convivono sugli stessi territori o si dividono gli stessi territori. E qui la lettura delle fonti è qualcosa di fondamentale. Se noi non facciamo una lettura attenta delle fonti, no, non riusciamo a venirne fuori, non riusciamo comunque. Il punto è questo, che le fonti ci dicono cose non vere il più delle volte, tante volte, o cose equivoche, cose che ci fanno cadere in errore, e quindi la verità, tra virgolette, e l'oggettività di per sé non esiste, no? Però la lettura di questi dati che noi diamo, e questa può, come dire, ribaltare anche le cose, ma questa lettura deve essere fatta con i metodi, con la consapevolezza, con la conoscenza, che deriva poi da uno studio lungo, non semplice, perché per leggere le fonti abbiamo bisogno di consapevolezza delle cose che facciamo, abbiamo bisogno di esperienza. Anche quando leggiamo qualche articolo sul giornale oggi, sì, il nostro spirito critico in qualche modo ci guida e ci permette in qualche maniera di separare, perlomeno di eliminare le cose palesemente assurde. Ecco, l'avvicinamento alla realtà e la verità è cosa lunga e poi non ci si arriva mai, no? Ecco. E quindi questo è un altro aspetto che mi sembrava utile, utile affrontare. Allora, guarda, io volevo anche chiedere agli autori subito, per dire la verità, perché sono andato avanti dopo la tendenza a non fermarmi, questo non va bene, no? Ma è una cosa che mi incuriosiva, no? Perché vi ho già parlato anche di questo, no? Ho visto le due versioni del libro, no? E le cose che i due libri sono molto simili, ma non sono identici, no? Beh, ovviamente uno in italiano, uno in tedesco. No. Però ecco, appunto, quello che dicevo prima, la scelta di mettere le carte al centro, la scelta di cambiare qualche titolo anche, no? Ho visto che alcuni questi titoli non sono gli esatti, non tutti, insomma, non ho fatto i riscontri puntuali su tutti, i 28 lavori, le appendici, eccetera, però insomma questo mi è saltato all'occhio. E quindi una cosa che mi piacerebbe sapere è proprio come è stato in questo processo, ecco, il passaggio dalla prima edizione in italiano del volume alla seconda in tedesco. È stato un processo, tra virgolette, di miglioramento, è stato un processo di adattamento ad altre esigenze? Sono state aggiunte delle cose, anche ho visto per esempio che alcune carte non ci sono qui, ma sono lì. No. Mi piacerebbe sapere questo. Posso dirvi quello che penso io? Di questo poi ovviamente parlerà meglio di me e Michael, ma quello che volevo dire è che questo cambiamento, insomma, sulla versione tedesca si lega un po' anche a una vicenda molto travagliata dell'intero libro, che non è stato frutto di uno o due anni di lavoro, è stato un lavoro che ha avuto una lunghissima gestazione. E quindi anche il volume tedesco, magari Michael mi correggerà, di fatto è stata anche un'occasione per proseguire in questo lavorio di revisione, di rivalutazione, di riconsiderazione, insomma, di alcuni passaggi. Secondo me, ma io dico la mia opinione, il fatto di aver trasferito le carte geografiche al centro del volume, perché costituiscono un po' il trait d'union fra quello che è la prima parte in cui si parla della popolazione come oggetto di studio e la seconda parte dove si parla della popolazione come oggetto di governo. Cioè questi due elementi, queste due parti di fatto si incrociano e si possono evidenziare nell'elaborazione cartografica, che in qualche modo porta in sé, interiorizza tutta una serie di impostazioni di studio della materia che sono ben evidenziate, secondo me, nel saggio introduttivo di Paolo Viazzo. Non so se avrete l'occasione di leggerlo, un breve saggio, ma di una chiarezza, di una lucidità straordinaria, perché, fra l'altro, non è uno storico, Paolo Viazzo è un antropologo, ma lui è un altro elemento. Parla di quello che è stata in qualche modo interpretato correttamente, senza che noi l'avessimo potuto dire, quella che era l'intenzione in fondo a questo volume, parlare di popolazione da un punto di vista demografico, ma soprattutto parlare di popolazione attraverso lo sguardo disciplinare di tante altre, tante altre impostazioni. E nella introduzione di Paolo Viazio c'è questo bellissimo colloquio a distanza tra Malinowski da una parte, che sapete aveva una casa qui sopra Bolzano acquistata nel 23, quindi, e la Lucy Varga, una storica degli Annal. In questo colloquio ideale che Viazio ricorda, e in una situazione alla conclusione del suo intervento, in cui ricorda come Varga stessa invitasse l'indagine storica a impossessarsi o comunque a utilizzare anche gli strumenti delle altre discipline, dell'antropologia, della sociologia, della geografia, ha fatto in qualche modo, ha permesso a noi curatori, parlo anche a nome di Michael, di in qualche modo non interpretare correttamente ovviamente quell'intenzione, ma di farla in qualche modo propria, riportare, promuovere le carte geografiche da semplice appendice, come forse erroneamente abbiamo fatto nella versione italiana, a cuore del libro stesso, credo sia stata una scelta fatta da Michael, ma che io, su cui sono pienamente, completamente d'accordo. Dass es so aussieht, als hätten wir zwei verschiedene Bücher vorgelegt, gehorcht natürlich Aspekten der Vermarktung. Den Käufer zu verwirren, selbst den Rezensenten zu verwirren, dadurch, dass wir die Karten, den Kartenanhang vom Ende her in die Mitte, halbwegs in die Mitte platziert haben, gehorchte letztlich nur technischen Aspekten und der Unterbringung eines Artikels, der uns dann doch ein bisschen zu sehr ans Ende gerutscht schien, in Verbindung mit einem ein wenig aus dem Gesamtthemabereich herausfallenden Beitrag zur Sprachwissenschaft oder zur Forschung der verschiedenen in Südtirol gesprochenen Sprachen, aber vor allen Dingen der Dialekte. Das war ein Teil, der in der italienischen Version an das Ende gestellt worden war, weil es nicht so sehr pertinent war zu den übrigen Beiträgen. Und vielleicht hat hierbei auch selbstkritisch angemerkt zu werden, dass eine Beschränkung dieses Werkes darin liegt, dass viele Wissenschaftszweige ihre eigene Geschichte noch nicht geschrieben haben. Und dass teilweise die Herausgeber andere Ergebnisse erwartet hatten, als sie dann produziert wurden. Also die Karten sind dieselben in beiden Versionen und nur eine reine technische Überlegung, sie in die Mitte des Buches versetzt zu haben. Es ist sicherlich richtig, dass diese Karten eine gewisse Aufmerksamkeit erheischen, insofern sie nahezu die einzige Illustration des gesamten Buches sind. Wir haben uns eine Bebilderung versagt. Die zweite Frage hinsichtlich der Unterschiede der beiden Ausgaben betraf den Titel. Ich fand es schwierig, den Begriff Oggetto Popolazione unmittelbar ins Deutsche zu übersetzen. Die Doppeldeutigkeit sozusagen, die verschiedenen Aspekte, die in der italienischen Version zu tragen kommen, nämlich Gegenstand auf der einen Seite von Politik zu sein und auf der anderen Seite von Wissenschaft, hätte man auf, für meinen Dafürhalten nicht ins Deutsche übertragen können, mit dieser Griffigkeit und dieser, diesen kurzen Begriffen. Insofern war die Suche nach einer anderen Titelform in der Luft, und mir schien auch dieser Aspekt, die Bevölkerungsgeschichte eines Übergangsraumes, durchaus interessant zu sein und in längerer Perspektive vielleicht auch anzuregen, einen Vergleich mit anderen Regionen, die ähnlich in Europa gelagert sind, Da ließe sich vor allen Dingen an Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Elsass denken. Das Buch hat, wie wir eben erwähnt und gehört haben, zwei Dimensionen. Das eine ist die rein, sagen wir, klassisch-statistisch-demografische, und das andere ist die der Bevölkerungspolitik und der Bevölkerungswissenschaft. Und das macht die Sache, glaube ich, aus allgemein deutscher, österreichischer, Südtiroler Perspektive schwierig. Es sind Begriffe, die belastet aus der Zeit des Nationalsozialismus hervorgegangen sind und lange Zeit sehr schwierig im Gebrauch waren, vermieden wurden. Politica della Popolazione ist in der Weise nicht belastet. Politica della Razza, ja, sicherlich, aber Bevölkerungspolitik als solches kommt also doch sehr schwer daher aus der Zeit des Dritten Reiches. Das ist also der eine Bereich, und der andere ist jener eben der Bevölkerungswissenschaft, des Zusammenspiels zwischen Wissenschaft und Politik, der Frage nach Politikberatung, die sich, glaube ich, heute intensiv stellt. Es ist also eine Frage der Einflussnahme aus wissenschaftlichen Kreisen auf die Gestaltung von Bevölkerung als Gegenstand, als Oggetto eben. Darin lag eigentlich die größere Herausforderung und das größere Interesse an diesem Band, der natürlich nicht auskommen konnte ohne die klassische Betrachtung von historischen Bevölkerungsentwicklungen. Was in der Unterschiedlichkeit beider Bücher auch noch hervorzuheben ist, ist sicherlich auch die Terminologie, die sich in den einzelnen Sprachen international etabliert hat und die damit zusammenhängenden Implikationen. Wenn wir nochmal zurückkommen auf den Begriff der Zahl, so steht diese ja zunächst mal augenscheinlich als undiskutierbar, als fix im Raum. Aber wie sie zustande kommt, welche Implikationen sie hat, aus welchen Zusammenhängen sie erstellt worden ist, das bleibt in der Regel offen. Wie auch die Ergebnisse zu werten sind. Wir haben einen aus meiner Sicht recht gelungenen Beitrag über die langwierigen Diskussionen, die teilweise bis heute anhalten, gerade hier im Südtiroler Kontext, über die Frage der Erhebung von Bevölkerungszusammensetzungen. Das Anzweifeln von statistischen Ergebnissen, was also zunächst als rohe, feste Zahl erscheint, unterliegt bei der Statistik und bei der reinen Demografie keines weiteren Erklärungsbedarfs. Aber diese Zahlen erscheinen oft in einem ganz anderen Licht, wenn man zunächst den Erhebungskontext in Betracht zieht, wenn man soziologische Hintergründe mit in den Blick nimmt. Vielleicht zu viel zunächst mal. L'altra parola, l'altro tema che contiguo insomma alle domande che vi ho fatto è proprio la geografia. Poi a parte ho trovato anche divertente, stimolante, no? Non so quanti tra i tanti autori citati non mi è sfuggita la presenza di un geografo friulano, no? Giovanni Marinelli, il quale è stato la persona che ha creato, no, il concetto di spartiacque alpino come confine, no, tra il mondo tedesco, no? Quindi un confine geografico che divide il mondo tedesco dal mondo italiano. E naturalmente questa grande idea, diciamo così, geografica, è stata immediatamente recepita dal regime fascista per dimostrare, no, che tutti, che l'Alto Adige era italianissimo, no, di fatto, era geograficamente italiano. Se non ricordo male, durante una delle visite di, o la visita di Hitler in Italia, il Duce proprio ebbe occasione di spiegare a Hitler che proprio di dimostrargli, no, come era anche evidente dal punto di vista geografico, come dovessero stare le cose. No? Poi per tutto altro verso, qui non credo sia citato l'autore, ma lo cito io molto volentieri perché non solo è friulano, ma è addirittura un mio compaesano, era un mio compaesano, e si chiama Ugo Pellis. Ugo Pellis era un linguista, è stato l'autore dell'Atlante linguistico italiano. No? E quindi, come dire, sono aspetti che ovviamente sono centrali anche per quanto riguarda, no, il libro di cui stiamo parlando. No? Ecco, però la geografia di cui vi volevo parlare io è diversa da quella linguistica, è diversa da quella etnica, da quella culturale, e poi possiamo ricamare e parlare su queste cose tantissimo. E qui si intersecano molti aspetti che poi citerò brevemente, insomma, in quella che è l'ultima delle parole chiave che ho scelto, insomma, per un attimo approfondire, che è la parola politica. No? Però fermandomi alla geografia, ecco una cosa che mi ha molto colpito in questo volume, una scelta che, come dire, fa sempre parte dell'armamentario, in qualche modo, dei demografi ortodossi, diciamo così. Però trovare le due cose insieme, un articolo dopo l'altro, mi ha molto colpito, insomma. Non so se sia stato un progetto dei curatori, poi me lo diranno magari, o se sia stata, come dire, o se abbiamo scelto degli autori che sono particolarmente che sono particolarmente distinti, come si suol dire, per questo genere di studi, e uno dei quali lo conosco, insomma, Augusto Scolani, che ha insegnato a Trento per tanti anni. E queste due idee geografiche, diciamo, questi due aspetti geografici che sono trattati nel volume in due diversi articoli, e l'aspetto, per così dire, orizzontale e l'aspetto verticale, no? Questo mi è molto piaciuto, cioè l'idea di fare una ricostruzione degli spostamenti, della distribuzione della popolazione del Trentino e del Sud Tirolo secondo le fasce altimetriche, no? E come queste fasce altimetriche si siano popolate, più spesso spopolate in realtà, in funzione del tempo, no? Col passare del tempo. E vedere anche le differenze, no? Tra i diversi territori. Quindi la tenuta, anzi l'aumento, magari non con la stessa velocità, in Sud Tirolo, della popolazione che vive in quota, anche perché poi questo territorio, non lo so per certo, ma mi immagino, guardando le carte geografiche, che l'altitudine media sia più alta rispetto alla provincia di Trento, mentre è discorso almeno parzialmente diverso, no? È accaduto per la provincia più meridionale. Quindi la ridistribuzione della popolazione, non solo numero, quindi, no? Non solo, noi demografi parlano spesso di struttura della popolazione, anzi uno dei capisaldi della disciplina, no? Quindi come si distribuisce la popolazione nelle diverse classi di età, no? Quindi certo abbiamo avuto un processo negli ultimi decenni di invecchiamento della popolazione che è interessato di più, beh, che è interessato tutta Italia, è interessato tutta l'Europa naturalmente, ma che ha interessato di più la provincia di Trento rispetto alla provincia di Bolzano. E questo si riverbera anche in qualche modo sulla distribuzione della popolazione, assieme a tante altre cose, naturalmente, non è solo la struttura della popolazione, forse non è, anzi, probabilmente non è, anzi, sicuramente non è la cosa più importante riguardo a questo, alle modalità di questa distribuzione. E quindi già il fatto di come, in maniera poi mi pare molto originale, no, nella provincia di Bolzano. Noi pensiamo a come si è distribuita negli ultimi decenni la popolazione italiana sul territorio. Noi abbiamo l'abbandono della montagna, no? Anzi, sono le alte quote le prime a cedere. Ci sono territori sulle Alpi, Pierpaolo Viazzo è persona studiosa, anche amico, insomma, che ha studiato questi aspetti, anche poi più vocatamente, diciamo, agli ultimi anni. Paolo Viazzo è vero, come formazione antropologo, però è stato forse sicuramente uno degli studiosi che ha dato impulso, ha quasi creato, almeno in Italia, il percorso, lo studio della demografia alpina, no? Cioè il fatto di studiare in maniera originale, cioè, o perlomeno di giudicare, di valutare come originali i comportamenti di questo territorio, non solo oggi, ma anche nel passato. Ecco, allora, ci sono tante aree alpine, aree montane in generale nel nostro paese che si stanno spopolando, no? Noi abbiamo un problema oggi in Italia di aree interne nel nostro paese. Le aree interne sono quasi tutte, quasi esclusivamente aree montane, che non solo si stanno popolando, ci sono territori interi che sono spopolati, sono villaggi vuoti, no? Troviamo solo le rovine, in qualche caso abbiamo dei paesi che sono invasi di nuovo dal bosco. E questo, come dire, l'originalità e anche la tenuta, no, della popolazione alpina in questa regione e in particolare nella sua provincia settentrionale è ben trattata nel lavoro, e secondo me questa, proprio l'idea di trattare gli aspetti demografici sulla base dell'altitudine è, insomma, è qualcosa che dà molto, insomma, no, in quanto a conoscenza, a sapere, ma anche come tracciato di studio. Poi c'è la lettura, se vogliamo, più tradizionale, quella appunto di Augusto Ascolani, sulla distribuzione invece orizzontale, no? Come la popolazione si è spostata nei diversi territori. Ecco, questo è un tema più classico sicuramente. E la forza, secondo me, ecco, il valore aggiunto, no, anche di questa visione è comunque di metterla e di farla discutere con l'altra, no? Ecco, è una parte del libro che ho trovato molto efficace, insomma. Quarta parola, la guerra. Nella presentazione è stato detto che mi sono occupato ultimamente della Prima Guerra Mondiale, quindi ho letto, come si dice, con vivo interesse gli articoli relativi alla Prima Guerra Mondiale e anche alla Seconda Guerra Mondiale. Allora, per quanto riguarda, per così dire, il resto d'Italia, noi abbiamo una fonte straordinaria per questo tipo di studi, che è l'Albo d'Oro dei caduti della Prima Guerra Mondiale. Diciamo, dopo la guerra vittoriosa, no, ingenti risorse sono state destinate dalle forze armate, dal Ministero allora della guerra, per raccogliere le informazioni biografiche in nuce, insomma, non proprio in grande sintesi, di tutti i soldati che erano caduti per la patria, no? E quindi abbiamo diverse decine di volumi, con un elenco di nomi, di caratteristiche, eccetera. E questo ha reso possibile approfondire questi studi e, come dire, cercare di anche riconsiderare dal punto di vista quantitativo i caduti del paese, eccetera. E però, per quanto riguarda questa regione, questi soldati di questa regione, altrettanto eroici, mi immagino, se non ancora di più, avevano combattuto nell'esercito, ovviamente, che la guerra l'aveva persa. E quindi non esiste un analogo fatto in Austria, a questo punto, un analogo dell'Albo d'Oro italiano. Dico la verità, non è, mi piace, avrete capito, io sono friulano, faccio sempre i confronti col Friuli, e diciamo nel comune, dove, nel paese dove vivevo io, che poi è la patria di Ugo Pellis, no? Dell'autore dell'Atlante linguistico, beh, faceva parte anche questa, una zona vicina a Trieste, siamo in provincia di Udine, ma siamo vicini a Trieste, quindi nella bassa Friulana orientale, beh, anche quei territori lì facevano parte dell'Austria-Ungheria, no? E quindi anche questi dei miei nonni, no? O i nonni dei miei amici, non sono, non compaiono nell'Albo d'Oro, perché combattevano nella logica dell'Albo d'Oro, dalla parte sbagliata, no? Allora mi è sembrato, è stato fatto molto anche su questo, in questo, su questo argomento riguardo a questa regione, e quindi ci sono delle raccolte, ho appreso anche leggendo, no, il volume, ci sono delle raccolte dei caduti, ci sono degli studiosi che hanno fatto questo lavoro e stanno tentando, insomma, di ricostruire, ma con una fatica immensa, perché non ci sono le stesse fonti che abbiamo riguardo al resto d'Italia. E quindi questo anche l'importanza, insomma, che poi sia il primo che il secondo conflitto mondiale in tutta Italia, ma in queste aree particolarmente, insomma, hanno avuto, no? Quindi è proprio una questione centrale anche, sì, nella dinamica demografica, ma una questione centrale anche per quanto riguarda gli aspetti, appunto, politici, poi geografici, ovviamente, il cambiamento dei confini, eccetera. Un'altra cosa, sempre riguardo alla guerra, c'è un lavoro anche sulle vittime civili, no? Io ho studiato prevalentemente militari, quindi lì mi concentro. Ma un lavoro analogo nel volume è dedicato anche alla Seconda Guerra Mondiale. Allora, riguardo ai caduti, ai morti, insomma, della Seconda Guerra Mondiale, le vittime militari, alcuni anni fa, tanti anni fa, per essere più corretti, uno dei massimi studiosi di storia militare italiani, che poi è mancato da poco, che si chiamava Giorgio Rochat, aveva scritto un articolo che si intitolava più o meno "Una ricerca impossibile, i morti italiani nella Seconda Guerra Mondiale". Che i temi e la complessità dell'argomento, pensiamo, e non possiamo che pensare solo ai soldati che avevano vestito la divisa dell'esercito, ma a coloro, i giovani che avevano vestito la camicia della la divisa della Repubblica di Salò, i giovani che avevano combattuto nella Resistenza. E se noi dobbiamo fare un compito dei caduti, dobbiamo considerare tutto questo. E poi una guerra, la Seconda Guerra Mondiale, che si era combattuta su teatri molto più vasti, no? Molto più vari dal punto di vista geografico. Quindi raccogliere queste informazioni è un'impresa. Rochat aveva detto impossibile, io sono impossibile, mi viene difficile da dire, ma disperata, però possiamo, si può affermare. E in realtà qui esistono delle ricerche che sono citate poi, tra l'altro, no? Che sono i caduti, che sono le ricerche dell'Istat, no? L'Istat ha pubblicato alcune cose riguardo a questo tema, però circoscritta a temi, insomma, più ristretti, ecco. E quindi, diciamo, molto apprezzato anche il fatto che ci siano degli studiosi che sono stati valorizzati, insomma, in questo volume, che si occupano anche di questioni molto molto complesse. Ecco, io non conosco un lavoro di questo tipo fatto per altre regioni, per esempio, no? Magari ci sarà, Ecco, dico l'ultima parola chiave, poi faccio una bella una domandaccia ai curatori. E l'ultima parola, appunto, la politica, no? Ecco, questa ripercorre proprio tutto il libro, no? Se noi vediamo, la questione demografia è diventata ed era una questione politica, no? E bisognava definire, a seconda del periodo storico, di chi erano queste terre, chi le doveva abitare, che lingua si parlava. Anzi, poi noi sappiamo che in un periodo particolarmente oscuro della nostra storia recente si parlava si parlava di proprietà di un popolo dal punto di vista genetico proprio, no? E quindi a dimostrare, cercare di approfondire, capire. Adesso le ricerche genetiche, sappiamo tutti, o almeno fino a qualche anno fa, erano di grandemente attrattive, diciamo. E vi racconto anche questa storia perché ha qualcosa a che fare con questi aspetti, perché ho visto che anche qui, in alcune aree, in alcune comunità qui in questa regione, sono stati fatti degli screening biologici, no? Quindi la ricostruzione del patrimonio genetico delle persone, eccetera eccetera. Si sono fatti, ce n'è tantissimi di questi oramai fatti in Italia. Uno è stato fatto qualche anno fa anche nella mia regione, in Friuli Venezia Giulia, e vi racconto un episodio, insomma, che può essere anche, cioè, che mette insieme più cose. Sono stati fatti questi screening in 5 comunità, piccole comunità isolate. Una di queste comunità si chiama Resia, dove vive una minoranza che parla una lingua, diciamo così, di origine slava. Allora, Resia, che è la Resia friulana, non è, no? Resia, il confine del comune di Resia, corre in parte lungo il confine con la Slovenia. Quindi verrebbe da pensare, e probabilmente le cose, anzi, qui lo dico e qui lo nego, le cose stanno quasi sicuramente così, la lingua che si parla a Resia è un dialetto di origine slovena. La storia però di questo, di questa comunità è una storia, come dire, è fatta da attributi geografici, perché la valle di Resia si apre sul territorio friulano, mentre è chiusa da un crine montuoso al territorio sloveno. Quindi, nell'accezione del geografo Giovanni Marinelli, quella è Italia, no? E i resiani sono molto orgogliosi del fatto che loro parlano una lingua che trovo, cioè, proprio una leggenda, no? Che una lingua che viene dal russo, quando i russi credo non abbiano mai messo piede in questa valle, e i risultati della ricerca genetica, questo trovo, no? Che poi qui rientriamo nel discorso delle fonti, dell'interpretazione dei dati, eccetera. E cosa viene fuori? Beh, è che i resiani, il patrimonio genetico dei resiani, di questo gruppo isolato, è resiano, non è imparentato né con gli italiani né con gli sloveni. Diciamo, scusate, i resiani sono felicissimi di questa cosa, no? Io non so quanto gli esiti di questi studi e queste, l'attenzione a questi aspetti, diciamo che nel passato, anche in questi territori, non ha sempre portato bene. Ecco. Una cosa mi ha impressionato, una volta sono andato con mia moglie cantava in un coro, e siamo andati a Resia, dove il coro si è esibito, e hanno cantato una villotta famosissima, si chiama La Roseana, La Roseana, la ragazza di Resia, no? E io ero tra il pubblico, la sala gremita, e questa villotta si conclude con una frase, insomma, di gioia, che dice: noi siamo resiani, noi siamo friulani, no? Cioè, che, cioè, come dire, è difficile. Io pensavo, Dio mio, qui succede il finimondo, invece no, cioè, si sentono, e l'orgoglio è quello di essere friulani, italiani, e non vogliono avere nulla a che fare, per questioni storiche, per rivalità, per chissà quali persecuzioni, penso io, invece hanno nei rapporti con i vicini sloveni, con cui non vogliono avere nulla a che fare, questo almeno ho capito. Niente, salto un po' di cose e mi avvio alle mie conclusioni, così dopo, no? Con una domanda. Allora, io ho già parlato, forse l'avrete capito, anche con i curatori, in altra occasione, e loro hanno parlato a lungo del fatto, sì, ma si poteva fare, no, nel libro si poteva fare quest'altra cosa, avremmo potuto farti là, ci sono molte cose che mancano, no? Dico, sì, beh, allora sono d'accordo, non si può che essere d'accordo, per chi fa il mio mestiere, diciamo, tutti quelli che fanno ricerca, hanno provato a fare ricerca, o solo cercano di pensare a una possibile ricerca, dicono, beh, no, sì, la ricerca si incrementa un po' alla volta, certe volte fa dei salti abbastanza veloci, però non vediamo mai la fine di questa ricerca. No, perché ci sono sempre cose da aggiungere, ci sono domande sempre nuove che noi ci poniamo, e quindi questo è un fatto, come dire, acquisito. Però io penso anche questo, è cosa che ho già detto agli autori, e oggi gliela rimando, diciamo, tiro di nuovo la palla nel loro campo. Ma un conto è quando noi facciamo una ricerca, noi partiamo, sappiamo che questa ricerca potrà anche non finire mai, Però un conto, se in un viaggio ipotetico infinito noi percorriamo un chilometro, e un conto se ne percorriamo 20 o 50 o 100. Allora, questo volume, che parte non certo da zero, perché ci sono degli studi, già ovviamente, come è normale che ci siano, su questi aspetti, alcuni di questi studi, come credo di aver dimostrato, insomma, stasera, sono anche nuovi, però per me non rappresentano solo pochi metri o poche centinaia di metri, per me rappresentano tantissimi chilometri. E quindi, diciamo, è un inizio benissimo, però insomma siamo avanti con il lavoro, no? come si dice ogni tanto. Allora, quello che volevo chiedere agli autori è, premesso che tantissime cose ancora mancano, che ci sono tantissime cose da fare, non finiremo mai di farle, ma ci sono delle priorità, secondo voi? Ci sono delle cose che vi interessano di più o delle cose che, secondo voi, questo libro in qualche modo avete pensato di stimolare? Io ho una cosa e ve la butto là, no? Io sono... parlo troppo di me stasera, diciamo, la mia formazione è una formazione da storico. In particolare mi sono laureato in storia moderna e le mie ricerche di carattere demografico sono prevalentemente di carattere demografico storico. E il più delle volte, specie all'inizio, diciamo, della mia traiettoria, mi sono occupato di demografia dell'età moderna, partendo da quelle che sono le fonti, gli strumenti che i demografi dell'età moderna usano, no? Che sono i registri parrocchiali. E ho visto che sul sito web della diocesi di Innsbruck ci sono le foto, tutte le possiamo vedere, scaricare, ci possiamo lavorare sopra, di tutte le parrocchie o di tantissime parrocchie di quel territorio. I registri parrocchiali ci sono anche qui, non so se ci sia una raccolta centralizzata come c'è a Trento, ad esempio, però a me piace, non dico io farei perché è lavoro, però mi piacerebbe leggere qualcosa sulla storia demografica dell'età moderna. Aggiungo questo e poi finisco. Mi sono occupato ultimamente di ricostruire una storia demografica delle Alpi, un articolo, insomma un saggio, e ho fatto una raccolta di serie demografiche, quelle già pubblicate, relative alla seconda metà del Settecento. E ho ricostruito, diciamo, ho trovato qualche centinaio di serie, quindi parecchie serie, e c'è un grande buco nel mezzo delle Alpi, un grandissimo buco, che sono i territori delle attuali province di Trento e di Bolzano. Ci sono pochissime cose poste sui confini meridionali, ma ancora magari ci saranno, questo confesso, non so tutto, certo, però credo ci sia tantissime cose da fare e che possono dare molta soddisfazione su questo. Cosa mi rispondete? Beh, insomma, non saprei proprio cosa rispondere, nel senso che il lavoro e questo volume... producendolo, progettandolo, contattando gli autori. Ecco, poi fra l'altro potevano essere anche di più gli autori dei 38, qualcosa è stato anche in qualche modo non accettato, diciamo respinto, perché non aveva in qualche modo, secondo noi, centrato quanto era stato chiesto. Ma con un libro di 600 e passa pagine in mano, uno dice, boh, forse... Però considero... Penso che Michael condivida questa visione. Considero questo volume come una, tutto sommato, come uno schema di ricerca. Cioè, ci sono tanti argomenti, tanti temi su cui c'è veramente di che lavorare. Anche l'arco cronologico 1880-2010 va un po' oltre quello che c'era, che dovrebbe essere il Novecento della regione Trentino-Alto Adige. Poi qua sottolineo che noi abbiamo sempre utilizzato regione con la R minuscola, non abbiamo mai voluto in un qualche modo confondere i due piani, quello del territorio con quello della, diciamo, della suddivisione amministrativa, quindi parliamo di un'area che di per sé stessa è anche molto dinamica, cambia, non è facilmente riconducibile a una unità statica, e quindi credo che sì, questo dei temi anche più demografici è un argomento da approfondire, perché per l'età moderna, e parlo del Trentino, non sono tantissimi gli studi, anzi direi che è tutto terreno vergine proprio da indagare, partendo proprio dalle fonti. Ma perché poi c'è un tema, no, che ricorre nel nostro libro, ma penso che sia parte della storia delle Alpi e anche di questa regione, è che è il tema del popolamento, spopolamento, del transito di un'area transitata, ma che poi, come ben ha raccontato Jean-François Brigé, è un'area vissuta. Ma come viene vissuta? Da chi viene vissuta? E gli aspetti demografici possono aiutare a capirlo, perché anche, come ricorda Viazza nella sua introduzione, si è sempre immaginato quest'area alpina come un'area ad alta tasso, grossa crescita demografica, un grande tasso di natalità, da cui questa idea delle Alpi come serbatoio, no? La famosa espressione di Brodel. Però no, proprio questi studi più recenti hanno dimostrato che tutta questa rappresentazione anche demografica delle Alpi di fatto vada completamente rivista e ripensata, così come non funziona quel modello di omeostasi, come si chiama, cioè quel fatto che la popolazione sia in grado di autoregolarsi sulla base delle risorse ambientali. Anche questo non è del tutto vero, nel senso che sappiamo che sì, c'è questa capacità di equilibrare la popolazione con le risorse offerte dall'ambiente, ma tutto questo è anche legato a processi emigratori, immigratori, a tutta una serie di altri componenti che vengono a influenzare questi andamenti. L'aspetto demografico da questo punto di vista è sicuramente interessante, ma proprio per come si muovono, per quali sono le dinamiche, per come si interagiscono con la realtà, ecco, questo apre inevitabilmente a tutti gli altri aspetti di cui il libro ha cercato di parlare. C'è a conclusione di questo volume un sogno, un progetto, un'idea, che effettivamente quello che si è stato indagato per la regione Trentino Alto Adige lo si è fatto anche per ragioni di interesse locale, bisogna dire che insomma c'è anche una componente di interesse legata al territorio in cui si vive, ma questo tipo di analisi sarebbe interessante poterla compararla con analisi con altre regioni simili per caratteristiche, cioè, anche queste definite magari da un ambiente montano, ma soprattutto dal fatto di essere zone mistilingue, quindi dove determinate dinamiche che sono state individuate e affrontate da vari autori per il Trentino Alto Adige possano essere rintracciate altrove, e capirne i meccanismi per comparare, avere anche strumenti per approfondire la comprensione di quella politica applicata alla popolazione. Jede Forschung und jede Publikation hat ihre eigene Geschichte, und einen Teil dieser Geschichte müsste man hier vielleicht noch berichten. Zunächst einmal ist dieser im Italienischen vorliegende Band Teil einer mehrteiligen Geschichte der Region Trentino-Südtirol im 20. Jahrhundert. Es ist der dritte Band, der zunächst geplant war als eine Sozialgeschichte des Raumes. Und in der Entwicklung der Idee heraus ist dann ein Interesse verstärkt auf den Aspekt der Bevölkerung und der Bevölkerungspolitik gelegt worden. Das schien uns ein bisschen innovativer und hatte auch zu tun mit anderen Forschungsprojekten, die zuvor durchgeführt worden waren. Also von daher war ein gewisses Interesse vor allen Dingen an der Frage, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Wissenschaft und Politik? Wie setzt sich so etwas konkret in einer Beispielregion um? Es gibt Aussagen von, sagen wir, Bevölkerungswissenschaftlern, und ich zitiere jetzt einen Fall, der an der Ostfront eingesetzt war und nach Hause schrieb: Ich betreibe hier Bevölkerungspolitik mit der Pistole in der Hand. Das ist eine Qualität von Bevölkerungspolitik gewissermaßen. Etwas, was wir in diesem drastischen Ausmaß in diesem Raume nicht finden, auch nicht im slowenisch-kroatisch-italienischen Grenzraum, obwohl dort meiner Ansicht nach die Verhältnisse dramatischer gelegen haben, als es hier in Südtirol der Fall, Südtirol-Trentino der Fall gewesen ist. Außerdem sei vielleicht aus der historischen Perspektive noch erwähnt, dass zunächst das Projekt eigentlich so angedacht war, dass zu ein und demselben Thema, zu ein und derselben Themenstellung, sowohl ein Autor deutscher Muttersprache wie ein solcher italienischer Sprache einen Beitrag hätte liefern sollen, dass man gewissermaßen auf unterschiedliche wissenschaftliche Traditionen und Gesichtspunkte zusammenführen oder nebeneinander stellen kann. Das hat sich dann leider nicht realisieren lassen, war aber ein Hauptanliegen eigentlich dieses Bandes. Die Frage, warum, ist nicht weiter ausgegriffen worden, also in der historischen Rückschau etwa bis ins frühere 19. Jahrhundert. Ja, es musste eine Beschränkung finden und wir haben einen Zeitraum gewählt, der eine ganze Reihe von Brüchen mit sich bringt und zugleich eine Fülle von Kontinuitäten aufzeigt. Ich glaube, es hätte eine Überlastung der Arbeit und auch des Themas mit sich gebracht. Insbesondere nochmal aus dieser Perspektive heraus eines Zusammenspiels zwischen Wissenschaft, wie greift Wissenschaft ein in die Gestaltung einer Bevölkerung, in ihre soziologische, in ihre sprachliche, ihre, sagen wir, genetische Zusammensetzung. Zugleich ist dieses ja auch stets verbunden mit der Frage nach der Grenzziehung. All das, was wir hier von wissenschaftlicher Seite über lange Jahrzehnte hinweg präsentiert bekommen, ist der Versuch, Grenzen zu ziehen. Und selbst wenn es um Sprachwissenschaft geht und das Aufführen von dialektalen oder sprachlichen Trennräumen, die Frage auch nach dem Erstgeburtsrecht, wer war eigentlich zuerst da, wem gehört das also, das alles verbindet sich eben doch mit diesen beiden gegenseitigen Ressourcen, die einander bedürfen. Die Politik kann nicht ohne ihre wissenschaftliche Beratung und umgekehrt ebenso nicht. Denn es dreht sich um Reputation, es dreht sich um Ressourcen, es dreht sich um die Rechtfertigung der eigenen Disziplin und oft genug auch um die Mehrung des eigenen persönlichen Ansehens. Also es sind eine ganze Reihe von Interdependenzen zwischen beiden Sphären, die zu berücksichtigen sind. Es ist die Frage angesprochen worden, die in der deutschen Terminologie unter der Bergflucht gefasst wird, unter dem sehr großen Forschungsprojekt, das in Italien durchgeführt wurde, Lo Spopolamento Montano. Es ist in diesem Zuge und auch unter anderen thematischen Gesichtspunkten von italienischer Seite eine große Fülle von Forschungsprojekten in den 30er Jahren vor allen Dingen durchgeführt worden, die, soweit ich es wahrnehme, zu einer intensiveren Wahrnehmung des Raumes, einem tieferen Verständnis auch, jenseits auch von Ideologien geführt hat. Fachkreise, die, nehmen wir das Beispiel des geschlossenen Hofes, diese Einrichtung, man kann dazu stehen, wie man will, als vorteilig eingestuft haben, nachdem zuvor das Regime diese Einrichtung gerade abgeschafft hatte. Also es ergibt sich daraus eine tiefere Kenntnis der Verhältnisse, aber auch der Führung, der Leitung, der Gestaltung des Raumes und seiner Bevölkerung. Und es war noch angesprochen worden, der Aspekt, ich finde, der in zwei sehr schönen, auch einfühlsamen Beiträgen geschildert worden ist, der Toten der beiden Weltkriege. Das Ansehen, das jenen zuteil wurde, die gewissermaßen auf der falschen Front gekämpft hatten im Ersten Weltkrieg, die Unterlegenen sozusagen, die von italienischer Seite nur wenig Anerkennung, Unterstützung gefunden haben. Das falsche Opfer brachten sozusagen aus italienischer Sicht. Und auch der sehr gelungene, meines Erachtens, Versuch, die Toten des Zweiten Weltkrieges gewissermaßen zu inventarisieren, mit der Feststellung, dass man womöglich die Zahl der Opfer, ob sie zivile oder militärische gewesen sind, sei egal, nicht fassen, nicht inventarisieren kann unter dem Leid, das die beiden Weltkriege mit sich gebracht haben. Das, finde ich, sind zwei durchaus bemerkenswerte Beiträge, die aus langen Forschungsprojekten, die in Trient durchgeführt worden sind, hervorgegangen sind. Grazie. Faccio un po' il padrone di casa, anche se non è il caso. So che gli autori sono qui a vostra disposizione per rispondere a tutte le vostre domande. I miei discorsi li ho fatti, ma dico ancora una cosa, visto che mi sono portato la copia da casa, no? Questa è la mia, l'ho portata apposta perché voglio che me la firmino anche i curatori, forse magari. Prego, lascio la parola volentieri al pubblico. Perché ci sembrava che le dinamiche al centro del volume non potessero essere confinate all'interno del secolo cosiddetto breve. E quindi entrare nell'Ottocento era indispensabile, anche perché all'Ottocento risalgono i primi censimenti della popolazione, quindi sembrava che questo periodo proiettato indietro fosse indispensabile per capire quello successivo. 2010 semplicemente perché è l'anno in cui praticamente abbiamo incominciato a lavorare a questo volume, e quindi ci sembrava che dovessimo in qualche modo arrivare almeno fino al momento in cui questa impresa ha preso avvio. Ci è voluto veramente tanto, si potrebbero inventare tante scuse, ma non ce ne sono, se non che il lavoro è stato veramente molto, molto più complesso di quanto ci aspettavamo, e che anche trovare questa struttura del volume non è stato affatto semplice. Abbiamo incominciato pensando a un'articolazione molto più ampia, molto per maggiori passaggi, poi alla fine siamo riusciti a trovare questa quadra, questa sintesi, e a trovare anche, come dire, una continuità, grazie anche un po' a un intervento sui saggi e la comprensione degli autori, che hanno accettato anche delle vere e proprie violenze, possiamo dirlo, però ecco, in questo modo quel 2010 è solo legato a questo. Fosse durato un po' di più il lavoro, avremmo anche aggiunto magari un altro lustro, ma non ha il significato del 2010, se non che è la data del censimento, ecco, quindi era un po' fermarsi a un momento di significativo come potrebbe essere quello del censimento. Spiegazione meno autobiografica, die Erklärung nämlich, dass es in dieser Weise auch möglich war, die jüngsten Zuwanderungen sowohl in den Trentino wie nach Südtirol mit in das Bild zu nehmen. Beh, sono riuscito a farglielo dire, sì, passo la parola subito, che quando si cura un volume con così tanti autori, se non si ha un po' di polso è finita, insomma. Lo sviluppo demografico è molto diverso tra il Trentino Se è così, perché? Quali sono i motivi, più o meno adesso capisco, non potete leggermi 600 pagine, però come mai questa differenza di due province comunque montane? Parlo io. Vengo in soccorso, no, io vengo in soccorso ai curatori con la risposta che ho trovato qua dentro. No. E allora, queste differenze, ve le riprendiamo, aree montane diverse, troveremo sempre delle differenze. L'aspetto che, di cui parlavo prima, no? Cioè il fatto che il Sud Tirolo sia conosciuta la provincia italiana che ha il più alto livello di fecondità, no? I demografi misurano la fecondità come numero medio di figli per donna. Ma fino all'anno scorso, due anni fa, eravamo a 1.7, mille donne mettono al mondo 1.700 figli. In Friuli, qualche anno fa, era 1.3, mille donne ne mettevano al mondo 1.300. Se andiamo in alcune aree, anche montane, meridionali, oggi siamo a livelli ancora più bassi. Allora, gli autori di questo lavoro, che poi sono i miei colleghi, amici, insomma, Fiorenzo Rossi e Fausto Ongaro, dicono, alcuni di questi aspetti, quello che unisce le due realtà, sono gli aspetti generali che sono anche tipici del resto d'Italia, se si vuole, perché abbiamo una fecondità alta, ma non sufficiente, diciamo così, a rimpiazzare la popolazione. E poi, concludono, è difficile separare, loro non lo fanno perché è troppo difficile al momento capire se ci sono delle questioni di carattere culturale, per esempio tra la popolazione di lingua tedesca e quella di lingua italiana. Per dire, no, la popolazione di lingua tedesca qui del Sud Tirolo ha livelli di fecondità che sono i più alti di tutte le popolazioni di lingua, in tutte le province c'è di lingua tedesca, cioè non c'è in Germania, in Austria, non c'è un territorio con una fecondità così alta come il Sud Tirolo. Questo può essere dovuto a ragioni storiche, al fatto che, si tratta alla fine, no, di una popolazione che è, tra virgolette, molte virgolette, separata, no, da quello che è il nucleo forte, diciamo, dell'area linguistica tedesca, e il fatto di essere una minoranza può essere, ed è in certi casi, sintomo di differenza, di differenziazione sotto diversi aspetti culturali, ma forse anche demografici. Allora abbiamo aspetti che sono in comune, e non sono pochi, perché la seconda provincia in Italia come fecondità è la provincia di Trento, no? E ci sono differenze, queste differenze sono molto difficili da valutare. Ne possiamo vedere le caratteristiche ambientali, alcune caratteristiche anche politiche, cosa si fa, no? Quali sono le politiche per la fecondità o politiche demografiche in Italia oggi e nel passato, e questo tende a uniformare, ma ci sono aspetti di differenza che è tutt'altro che semplice cogliere. E quindi la risposta è non lo so io, no, sì, per questo non era difficile da capire, ma sono veramente aspetti molto complessi, insomma, anche per studiosi che sono dedicati proprio allo studio di queste aree. Ich glaube, dass man die Unterschiede zwischen dem Trentino und Südtirol nicht überartikulieren sollte. Im Wesentlichen vollzieht der Trentino Entwicklungen zeitverzögert nach, die sich zuvor in Südtirol vollziehen. Ein Grund für Unterschiedlichkeit sicherlich in den unterschiedlichen, vor allen Dingen agrarökonomischen Strukturen. Grundbesitz, Eigenbesitz, Verdichtung von Besitz in niederen Tallagen. Auf der einen Seite kennen wir also die massive Auswanderung aus dem Trentino gegen Ende des 19. Jahrhunderts, der ja teilweise, diese Auswanderung, die teilweise ja ein Drittel der ansässigen Bevölkerung gekostet hat. Und im Gegenzug kennen wir beispielsweise die, sagen wir mal, italienische Aufforstung, wenn das so in Anführungsstrichen durchgehen darf, des Faschismus, also sozusagen der Import von Bevölkerung, der natürlich die Zahlenverhältnisse auch verschoben hat. Man muss also schauen, was genau versteht man unter unterschiedlicher Bevölkerungsentwicklung. Hier kommen eben teilweise dann doch staatlich gesteuerte Prozesse mit zum Zuge. Quando si parla di popolazione come oggetto di studio, oggetto di politiche di governo, giustamente si pensa immediatamente, come ha detto il professor Wedekind, a quello che ha rappresentato nel XX secolo, soprattutto sotto l'influenza del nazionalsocialismo. Però c'è un altro fenomeno che ha a che fare col trasferimento coatto e con le deportazioni di persone, che è quello del colonialismo, e che nel volume viene affrontato collateralmente e che viene però messo anche tra virgolette quando si parla della regione. Ecco, potreste forse spiegare anche perché avete fatto questa decisione di parlare di iniziative colonializzatrici tra virgolette nel volume? Grazie. Kolonialismus würde ich mir grundsätzlich andere Konstellationen vorstellen, die vor allen Dingen auf eine wirtschaftliche Ausbeutung hinausgehen. Hier lag ja der Grund sozusagen einer Umstrukturierung der Wirtschaft, der forcierten Industrialisierung, nicht so sehr in der Nutzung von Ressourcen, sondern in der Verschiebung ethnischer Verhältnisse. No, scusate, perché io non è che sia è il mio traduttore, ma l'uso del termine colonialismo dal mio punto di vista, fra virgolette, perché con colonialismo si intende ovviamente un processo relativo a paesi extraeuropei, quindi è una modalità che non si può applicare tout court all'Alto Adige, anche perché è vero che l'Alto Adige è un territorio che viene acquisito dopo una guerra di conquista, ma nel momento stesso in cui viene sottoposti questi processi così di, abbiamo definito di colonizzazione, è ormai parte integrante di una realtà nazionale ben definita. Ecco, quindi i metodi sì possono essere definiti coloniali, però non possiamo del tutto ricondurli a quelle dinamiche. Grazie. Eine Frage für Michael. Ich habe das Buch nicht gesehen, aber ich entnehme deinen Ausführungen ein Stück weit auch diese Vorsicht oder sagen wir so dieses Unbehagen mit der Terminologie, und da würde ich gerne beantwortet wissen, wie du das einsortierst in die derzeitige deutschsprachige Debatte. Also kann man wieder Narrative von Bevölkerungsgeschichte sozusagen progressiv neu befüllen, und das habt ihr vermutlich getan. Und wie verhält sich das zu der belasteten Historiografiegeschichte dieses Feldes? Also demografische Forschung ist ja ein Feld im deutschsprachigen Raum mit zahlreichen Untiefen und Missbräuchen. Und davon muss man sich ja quasi fast in jedem zweiten Satz wiederum irgendwie distanzieren. Das wäre die eine Frage. Die zweite, ist der italienische Bereich wirklich so unproblematisch? Denn du hast einführend darauf hingewiesen, man kann sozusagen mit italienischem Sprachgebrauch Dinge sagen, die man im Deutschen nicht sagen kann. Ist es nicht auch ein Manko, sage ich, einer italienischsprachigen Historiografie, die hier vielleicht etwas, ein Stück weit Naivität oder sagen wir so Unaufgeklärtheit transportiert, einfach aus Gründen der mangelnden Aufarbeitung vielleicht oder der mangelnden Aufarbeitungsgeschichte einer Terminologie, die letztlich fragwürdig ist? Zum letzten Punkt. Es hat sich allgemein im internationalen Sprachgebrauch eigentlich der Begriff von Demografie oder Demography oder was es sein mag, etabliert als Begriff für klassische statistische Bevölkerungserhebung, wie auch die Untersuchung der Bevölkerung gewissermaßen nach qualitativen, das ist ein Begriff, der bisher nicht gefallen ist, Gesichtspunkten. Insofern, als das beispielsweise im italienischen Raum nicht von Bevölkerungspolitik in der Weise historisch die Rede ist, sondern stets von Demografie, ist also dieser Begriff von Bevölkerungswissenschaft und Bevölkerungspolitik, so wie wir ihn dann eingeführt haben mit der Übersetzung Scienza della Popolazione oder Politica della Popolazione, nicht kompromittiert im italienischen Sprachraum. Im Raum. Demografie wäre etwas anderes, was zu thematisieren ist. Aber es ist eine Unschärfe, die letztlich auch im deutschen Sprachraum vorliegt, aber vor allen Dingen den angelsächsischen, französischen, italienischen Kultur- und Wissenschaftsraum betreffen. Wobei unter Bevölkerungswissenschaft eben vor allen Dingen die Auseinandersetzung mit Bevölkerung unter einem qualitativen Gesichtspunkt gesehen wird. Das mag unter genetischen Gesichtspunkten der Fall sein, es mag bis hin zu der Zuschreibung kultureller, zivilisatorischer Fähigkeiten gehen, womit also tiefe Grenzen gezogen werden. Du fragtest eben nach dieser Begrifflichkeit von Bevölkerungsgeschichte und ob man diesen Begriff heute im Deutschen sozusagen wieder gebrauchen kann. Es war ein, wie soll ich sagen, glückhafter Umstand, dass das andere bereits getan haben. Oder anders gesagt, dass ich an zwei Forschungsprojekten beteiligt war, an denen es um diese Frage ging und vor allen Dingen die Bevölkerungspolitik des Nationalsozialismus in den Mittelpunkt gerückt wurde. Unter all diesen, wie soll ich sagen, vorsichtigen Hinweisen darauf, wie weit dieser Begriff belastet ist, wenn das deutlich hervorgehoben wird, kann man schon aus meiner Sicht, und das ist, glaube ich, in dieser Weise auch Konsens der beiden Forschungsprojekte gewesen, diese Terminologie durchaus verwenden. Insofern, als dass sie einen Unterschied eben deutlich machen will gegenüber einer rein statistischen, quantitativen Bevölkerungsforschung, gegenüber solchen, die Bevölkerung in einen soziologischen Kontext oder alle Aberrationen, von denen eben die Rede war, einsortiert. Il lavoro che è stato fatto è un lavoro ammirevole per lunghezza, è stato anche detto, anche per il numero di persone coinvolte, per temi trattati. E volevo chiedere agli autori cosa hanno capito che manca ancora in termini di ricerca o che si può ancora fare, no? Alla fine di un lavoro, alla fine spesso sorgono le domande, no? Sorgono le domande della ricerca che è stata fatta. Una cosa l'avete già detta ed è quella di una comparazione fra quelle che sono le dinamiche demografiche della popolazione nell'area trentino-sudtirolese e altre aree alpine simili, no? Questo è uno dei desiderata che c'è anche per la storia economica o per altri aspetti. Però quali sono altri aspetti secondo voi su cui chi fa ricerca da qui in avanti dovrebbe puntare per arricchire il quadro che voi avete già disegnato così bene? Beh, sono tantissimi, però uno in particolare però mi sembra importante, un approfondimento da fare. Il volume, nonostante il titolo porti questo arco cronologico, questa estensione 1880-2010, è molto, diciamo, carente, lo possiamo dire, sulla parte della seconda metà del Novecento. Lo è perché vi è uno stato delle fonti che ancora forse non consente degli approfondimenti, lo è perché diciamo questo terreno è forse è un terreno che è anche oggetto di scontro, no? Di visioni, scontro politico, e quindi è un terreno un po' viscido su cui non ci si riesce ancora in un qualche modo ad avventurare in maniera oggettiva, obiettiva. Quindi più che sviluppare alcuni temi che si sono anche già ricordati, forse il grosso, la grossa scommessa è proprio lavorare sulla seconda metà del Novecento. Poi è anche vero che la scelta di soffermarsi molto fra il periodo, fra le due guerre, non è solo stato dettato dallo stato delle ricerche, dallo stato delle fonti o dalla disponibilità dei collaboratori, ma anche perché è in questo periodo che abbiamo immaginato che si collocano tutta una serie di dinamiche, di azioni, di scelte che in qualche modo gettano ancora la loro ombra sulla nostra contemporaneità. E però ecco, questa contemporaneità va maggiormente approfondita, ne abbiamo sentito la carenza, ma non abbiamo neanche comunque individuato persone o situazioni che potessero aiutarci a gettare un po' di luce. L'altro aspetto che fa parte un po' del progetto complessivo è che questi quattro volumi, che poi il terzo volume se ne è aggiunto recentemente un quarto, nel progetto iniziale doveva essersene anche un quinto, è stata un'operazione completamente, qui non lo dico a merito o a demerito di qualcuno, ma è stata un'operazione completamente e unicamente sostenuta dalla provincia autonoma di Trento e dalla Fondazione Museo Storico del Trentino. Non vi è stata alcuna, ripeto, non è una critica, un dire brutti cattivi, avete fatto questo, però non vi è stato alcun tipo di interesse, sostegno da parte della parte altoatesina. Questo a significare che al di là della volontà e della disponibilità degli studiosi, dei ricercatori, rimane ancora un grosso scoglio politico che liberi la ricerca, che permetta in qualche modo di addentrarsi in questi nuovi territori e di farlo in maniera metodologicamente corretta e senza timori in qualche modo possa accadere qualche cosa, insomma, se si affronta anche questa realtà. Questa storia. C'è un altro tema, no? Un concetto, ma che c'è per carità per tutta la storia, in tutti i luoghi della Terra, però è un aspetto di rimozione. E la rimozione possiamo leggerla in piccole cose. Si parlava prima di caduti di guerra, caduti dalla Seconda Guerra Mondiale. Per il Trentino, una stima c'è di morti militari, morti civili. Per l'Alto Adige si parla ancora di cifre abbastanza approssimative, fantasiose, di cui non si può parlare dei caduti militari o civili in Alto Adige, perché poi i caduti militari, diciamo, sono quelli che hanno combattuto in divisa tedesca. Allora, e poi c'è una rimozione. Parliamo, articolo della Maria Fibrand sul trasporto, chiamato deportazione di malati psichici dalla manicomio di Paris nella Sugana, anche lì di questa cosa è una storia che è emersa solo di recente, molto faticosa da costruire, quindi un'altra rimozione, così come di rimozione parla Marta Verdorfer, lì dove parlando di emigrazione altoatesina si parla di come di questo fatto di che gli altoatesini potessero emigrare, non si può parlare, non se ne deve parlare. E quindi ci sono tutta una serie di temi che vengono sistematicamente negati, ma vale anche per il Trentino, per carità, non è che noi siamo tanto migliori. Però ecco, queste componenti fanno sì che il terreno della ricerca storica e una ricerca storica che dialoghi anche con le altre discipline è estremamente difficile, perché trova davanti a sé una serie di ostacoli insormontabili. È come se la ricerca non dovesse essere fatta, desse ancora molto, ma molto, molto fastidio. ha ragione ad essere così. A voi la risposta e le vostre considerazioni. Wenn ich noch ergänzen darf, kurz, sofort, ist vielleicht auch noch anzumerken, dass ein Schwerpunkt dieses Bandes sehr auf Südtirol gelegt worden ist. Der Trentino kommt vergleichsweise weniger zum Zuge. Was ansonsten an Themen aus unserer Sicht aufzuarbeiten wäre, abgesehen davon, dass doch in vielen Bereichen, insbesondere wohl von italienischer Seite aus, die Geschichte der eigenen Disziplin nicht hinreichend und nicht kritisch aufgearbeitet worden ist, wäre beispielsweise der Aspekt, welche Auswirkungen die faschistische Bevölkerungs- oder Demografiepolitik gehabt hat, welchen Niederschlag hat also die Rassenpolitik konkret in der Provinz gehabt, welchen Erfolg hatten Wohlfahrtssorge und Pflegeeinrichtungen, also dieses ganze, nennen wir es Wohlfahrtssystem, in der Provinz effektiv gehabt. Auch die Frage der Binnenmigration, glaube ich, ist eine solche, die wenigstens unter ihrem quantitativen Aspekt aufzuarbeiten wäre. Und schließlich sei vielleicht auch noch selbstkritisch angemerkt, dass nicht alle Beiträge letztlich den, sagen wir es doch so ruhig und heraus, den Erwartungen entsprochen haben und gelegentlich sehr traditionelle Beiträge vorgelegt wurden, die wir dann auch, Rodolf hat es eben schon gesagt, teilweise nicht in den Band aufgenommen haben. Das verbindet sich eben mit dem Aspekt, den ich eben schon nannte, also die Notwendigkeit, selbstkritisch zur eigenen Disziplin zu stehen. Das mag die Geschichte der Geografie, die Involvierung italienischer Geografen in die Vorlage von Grenzziehungen betreffen, das mag auch die Sprachwissenschaft betreffen. Eine ganze Reihe von derartigen Themen sind sicherlich mit diesem Band nicht abschließend behandelt worden und eigentlich ist der Band denn doch vielleicht mehr Ausgangspunkt von weiterem als, wie das immer so ist, Abschluss einer Thematik. Non ho letto il libro, quindi lo leggerò e probabilmente parte della risposta c'è sicuramente. Mi ha affascinato nel vedere le carte proiettate, l'insistenza, la frequenza di carte su fenomeni linguistici. È abbastanza difficile già misurare l'essere umano nel suo sviluppo, nella sua crescita, che è la demografia. Figuriamoci se poi ci si ferma a un aspetto volatile come la lingua, insomma, benché naturalmente importante per la vita e per la cultura. E concentrarsi di queste carte, intanto sui punti dubbi che sono i ladini e mocheni e cimbri, insomma, ce n'erano di specifiche, perché evidentemente queste popolazioni creano un problema in uno schema a due. E in secondo luogo, la differente maniera di trattare alcune aree, come la zona tra Laives e Salorno, dove le persone parlano più lingue in sostanza. E questo è abbastanza affascinante, il fatto che la cartografia diventi già un elemento di conquista essa stessa, insomma, almeno così l'ho visto in apparenza. Mi piacerebbe capire poi come nel passato varie volte è stato affrontato questo tema, e sicuramente c'è scritto, perché credo che tuttora sia uno dei tabù. Non penso che nella nostra provincia esista una statistica che lingue parli, con che frequenza e se le mescoli tra loro, che dialetti ci aggiungi, eccetera. Esiste una scelta di natura totalmente politica a quale gruppo desideri appartenere e poi si è dovuto ammettere la possibilità di cambiarlo anche se con degli ostacoli, insomma. E questo è abbastanza affascinante perché comunque il fenomeno non si lascia regimentare nemmeno nel sistema più rigido che è quello che abbiamo pensato, con ragioni storiche, Insomma, per cui niente, mi affascinerebbe, se avete pezzi di risposta ve ne sono grato, se no me ne andrò a cercare nel libro, ecco, grazie. Zunächst muss ich mich entschuldigen dafür, dass die meisten der Karten nicht haben richtig vorgeführt werden können. Die harmloseren schienen hier in die engere Auswahl zu kommen. Ich glaube, die letzten drei, die anderen, die doch ein bisschen aggressiver in der Tonalität waren, sind einfach so schnell durchgelaufen. Technischer Fehler, bitte ich um Entschuldigung. Natürlich, diese Karten nehmen einen Idealzustand voraus oft. Es ist nicht die Abzeichnung der Gegenwart, sondern der Wunsch oder das Ziel, das zu erreichen ist. Und die Techniken dabei ausgesprochen interessant. Es gelingt der einen italienischen Karte also minimalste italienische Bevölkerungspräsenzen in einzelnen Dörfern drastisch darzustellen, indem, ich meine, ab einer Schwelle von 5 Einwohnern, also erstmal ein Punkt dahin kommt, nicht? Also das gehört schon mal dazu gewissermaßen, um es so salopp zu formulieren. Und zugleich auf anderen Karten dann rekurriert wird auf im wahrsten Sinne des Wortes altertümliche Verhältnisse. Also beispielsweise werden römische Ausgrabungen vorgeführt, denen auf der anderen Seite Burgen des Mittelalters als deutsch gelabelt gegenübergestellt werden. Also die Techniken sind ausgesprochen interessant und gehorchen einfach der Überlegung, welches Ziel man darzustellen beabsichtigt. Zugleich aber ist also die Technik letztlich immer dieselbe. Rot ist in der Regel das eigene und alle anderen Farbgebungen das Fremde, Unzugehörige. Ob es in Südtirol an der Erhebung von Sprachgruppenzugehörigkeiten fehlt, würde ich doch noch bezweifeln. Gibt es nicht die Notwendigkeit hier, sich einer solchen gelegentlich zugehörig zu erklären? Bene, allora chiudo io. Ho iniziato, no? Ho detto parto dall'inizio, parto dalla fine del libro, alla fine, nel salutarvi, parto dall'inizio, no? Non ho detto prima, mi sembra una cosa molto importante, che c'è una dedica in questo libro, no? Quindi che leggo e lascio le vostre considerazioni, insomma, ad Alexander Langer e al suo impegno in favore di un universalismo delle differenze. Applaudiamo i curatori, anche Alexander Langer. Volevo dire che poi nel volume tedesco alla dedica abbiamo aggiunto anche il nome di Klaus Gatterer. Quindi c'è stata un'ulteriore modifica.